cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se vi guardo, vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Coi silenzi dell'amore, yeah. E riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte, nella notte dei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. In loro un giorno scoprirò quello che tu nascosti. Spiaggia vuota, senza mare, io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male mi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.